sarebbe successo ciò che è successo. No, io odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio questo piagnisteo da eterni innocenti. Io chiedo conto. Chiedo conto ad ognuno di loro di come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e che gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto, ma specialmente di ciò che non ha fatto. E io mi sento di poter essere inesorabile. Io mi sento di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo. Io sento già pulsare nella mia parte l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ciò che accade non è dovuto al caso o alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare, mentre pochi si svenano e si sacrificano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917. Pecore, pecore. Il mondo si divide in tre categorie di persone. Una piccolissima parte che fa accadere gli avvenimenti, un gruppo un po' più importante che veglia sulla loro esecuzione e osserva il loro compimento, e una vasta maggioranza che giammai saprà ciò che in realtà è accaduto. Nicholas Murray Butler, Premio Nobel per la pace, 1931. Vi sono due storie, la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata, la storia ad usum delfini e la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti. Una storia vergognosa. Honoré de Balzac, Illusioni perdute, 1843. Oggi gli americani si sentirebbero oltraggiati se le truppe delle Nazioni Unite entrassero a Los Angeles per ristabilire l'ordine. Domani essi ne saranno riconoscenti. Ciò è particolarmente vero se alla gente si dice che c'è un pericolo esterno imminente, vero o inventato che sia, che minaccia le loro stesse vite. Allora tutti i popoli pregheranno i loro leaders perché li proteggano da questo demone. L'unica cosa che ogni uomo teme è l'ignoto. Quando questo scenario si presenta, si rinuncia volentieri ai propri diritti, in cambio della garanzia del proprio benessere, garanzia concessa dal governo mondiale. Henry Kissinger, durante un incontro del gruppo Bilderberg a Evian, Francia, il 21 maggio 1992. All'insaputa di Kissinger, un delegato svizzero registrò il suo intervento. Ninna nanna, nanna ninna, il pupetto vola zinna. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello. Farfarello e Guglielmone che si mette a pecorone. Guglielmone e Cecco Peppe, che si regge con le zeppe. Con le zeppe dell'impero, mezzo giallo e mezzo nero. Fa la ninna, pia sonno, che si dormi, non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo tra le spade e i fucili dei popoli civili. Fa la ninna, tu non senti li sospiri e li lamenti di un popolo che si scanna per un matto che comanna. Che si scanna e che si ammazza a vantaggio di una razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che sto covo d'assassini che c'insanguina la terra lo sa bene che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo li sovrani che se scambiano la stima buoni amici come prima. So cugini e tra parenti non se fanno i complimenti, anzi torneranno più cordiali li rapporti personali. E riuniti tra de loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace, sul lavoro. E quel popolo coglione, risparmiato dal cannone. Ninna Nanna della guerra, Trilussa 1914. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce, tutti i cazzi che ve se fregano. Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. La grande promessa di progresso illimitato, vale a dire la promessa del dominio sulla natura, di abbondanza materiale, della massima felicità per il massimo numero di persone, di illimitata libertà personale, ha sorretto le speranze e la fede delle generazioni che si sono succedute a partire dall'inizio dell'era industriale. L'imponenza della grande promessa e le stupende realizzazioni materiali e intellettuali dell'era industriale devono essere tenute ben presenti se si vuole capire l'entità del trauma che oggi è prodotto dalla constatazione del suo fallimento. Giacché è evidente che l'era industriale non è riuscita ad esaudire la grande promessa. E un numero sempre crescente di persone sta oggi rendendosi conto di quanto segue. La soddisfazione illimitata di tutti i desideri non comporta il vivere bene, né è la strada per il raggiungimento della felicità o anche soltanto del massimo di piacere. Il sogno di essere padroni assoluti delle nostre esistenze ha avuto fine quando abbiamo cominciato ad aprire gli occhi e a renderci conto che oggi siamo tutti divenuti ingranaggi della macchina burocratica e che i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri gusti sono manipolati dai governi, dall'industria e dai mezzi di comunicazione di massa controllati dagli uni e dall'altra. Il progresso economico è rimasto limitato ai paesi ricchi e il divario tra nazioni ricche e nazioni povere si è più che mai ampliato, e lo stesso progresso tecnico ha avuto come conseguenza il manifestarsi di pericoli per l'ambiente e il rischio di conflitti nucleari, e sia gli uni che gli altri, agendo isolatamente o insieme, possono mettere fine all'intera civiltà, o forse anche a ogni forma di vita. L'uomo è divenuto un superuomo. Ma il superuomo, col suo sovrumano potere, non è pervenuto a livello di una sovrumana razionalità. Più il suo potere cresce, e più diventa un povero uomo. Le nostre coscienze non possono non essere scosse dalla constatazione che più cresciamo e diventiamo superuomini, e più siamo disumani. Erich Fromm, Avere o Essere, 1976. E la notte la famiglia s'attenda sulla proda del fosso, e un'altra famiglia arriva e rizza la tenda. I due uomini si accoccolano sui talloni e le donne e i bambini stanno ad ascoltare. Il nodo è qui. Oh, voi che avete paura del mutamento in atto, che tremate all'idea di una rivoluzione. Impedire dovete a tutti i costi che i due spodestati s'accoccolino l'uno accanto all'altro. Instillare in ciascuno di loro l'odio reciproco, la paura, la diffidenza, perché allora non si tratta più di "io ho perso il mio pezzo di terra". La cellula si biparte e genera quel "noi abbiamo perso il nostro pezzo di terra" che vi illividisce. Qui è il pericolo, perché due uomini insieme sono sempre meno perplessi di un individuo solo. E da questo primo "noi" trae origine un altro e maggiore pericolo, che è rappresentato dalla somma dei due termini "ho qualcosa da mangiare" e "non ho da mangiare". Se il totale da "abbiamo qualcosa da mangiare", la valanga s'avvia. Il movimento prende una direzione. Questo è il quadro. Due uomini accoccolati sull'orlo della strada. Il miserabile fuoco sotto la pentola comune. La pancetta che frigge in una padella sola. Le tacite donne dagli sguardi pietrificati e i marmocchi intenti a parole che i loro cervelli non intendono. Si fa notte. Il bambino ha freddo. Ecco, prendi questa coperta, è di lana, era di mia madre, tienila per i bambini. Questo l'obiettivo che dovete bombardare, questa transizione dall'io al noi. Se voi, che possedete le cose che le masse hanno bisogno assoluto di detenere, poteste rendervi conto di questa piccola realtà, allora sareste in grado di salvarvi. Se foste capaci di distinguere le cause dagli effetti, di persuadervi che Paine, Marx, Jefferson, Lenin furono effetti e non cause, allora potreste sopravvivere. Ma non

fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi, col Papa e ogni sacramento, andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotsky al vento! Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano, ma perché portano lo stesso vestito per diverse settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, gli uni vicino agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Di solito si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Fra di loro parlano linguaggi a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono usati per chiedere l'elemosina, ma sovente, fuori dalle chiese, donne vestite di nero e uomini quasi sempre anziani chiedono pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, diventano violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è sparsa la voce di alcuni stupri consumati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governi hanno aperto troppo le frontiere e non hanno saputo selezionare fra quelli che vengono qua per lavorare e quelli che invece pensano di sopravvivere con espedienti o addirittura con attività criminali. Relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del governo americano sugli immigrati italiani in America. Novecento 1912. Il sole del mattino spunta e nasce un nuovo giorno pieno di vecchi problemi, vuoi levarteli di torno. Quando il traffico ti inchioda in un ingorgo bloccato, quando vedi un immigrato, quando pensi a come vive le sue storie di merda, quando ne senti la puzza e non vorresti sentirla, quando prima di ogni cosa vuoi levartelo di torno e poco importa se i tuoi soldi sono un po' anche di suo nonno, quando tu non sei razzista ma non sei nemmeno Dio, quando non è colpa loro ma anche loro colpa Dio, allora spara bastardo, dai sparagli addosso, tanto domani sono morti lo stesso, dai sparagli addosso, ammazzali tutti, dai noi siamo i belli, loro sono brutti, dai loro sono brutti ma brutti davvero, poi spara anche me, sono uno di loro e tu spara, sono Non discuterò qui l'idea di patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Ma se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, Allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente, anzi eroicamente, squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi. Le armi che voi approvate sono orribili macchine per distruggere, mutilare, uccidere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente. Lo sciopero e il voto. Don Lorenzo Milani, lettera ai cappellani militari, 22 febbraio 1965. Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale. Occorre contemporaneamente che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo, che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci, che ci siano fondate condizioni di successo, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della guerra giusta. Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 2307, 15 agosto 1997. E che c'entra la Chiesa Cattolica col catechismo? Ci mando più Luigina a catechismo. Possono morire. Possono morire. Il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche. Possono morire. Possono morire. Possono morire. Possono morire. Possono morire. Possono morire, possono morire, possono morire, possono morire, possono morire. Mostrato di avere le palle di cemento. Non essendo il governo degli Stati Uniti d'America in alcun senso fondato sulla religione cristiana, giacché in sé non nutre alcun pregiudizio di inimicizia contro le leggi, la religione o la tranquillità dei musulmani, e dato che i detti Stati Uniti non sono mai entrati in alcuna guerra o dato di ostilità con alcuna nazione maomettana, le due parti dichiarano che nessun pretesto derivante da opinioni religiose produrrà mai un'interruzione dell'armonia che esiste tra i due paesi. Trattato di Tripoli, articolo 11, siglato tra il presidente George Washington e gli stati barbareschi il 4 novembre 1796. Justice has been done. Away. so they cannot murder our people. Non voglio in questa lettera riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Mi riferirò piuttosto alla Costituzione. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Ora misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un circa un secolo di storia. E se vedremo che la storia del nostro esercito è tutta intessuta di offese alle patrie degli altri, dovrete chiarirci se in quei casi i soldati dovevano obbedire o obiettare quel che dettava loro la coscienza. E poi dovrete spiegarci chi in quei casi difese di più la patria e l'onore della patria, quelli che obiettarono o quelli che, obbedendo a voi, resero odiosa la nostra patria a tutto il mondo civile. Ma basta con i discorsi altisonanti, generici, no, scendete al pratico, diteci esattamente, ma che cosa avete insegnato ai soldati? L'obbedienza a ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili? Un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme? L'esecuzione sommaria dei partigiani? Che ne so, l'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, oppure la tortura? L'esecuzione d'ostaggi, le decimazioni? Scegliere a sorte qualche soldato della patria e fucilarlo per incutere terrore agli altri soldati della patria? Oppure la repressione di una manifestazione popolare? Eppure queste cose, e molte altre, sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi, o avete mentito o avete taciuto. O volete farci credere che avete volta a volta detto la verità ai vostri superiori, sfidando la prigione e la morte. Se siete ancora vivi e graduati, è segno che non avete mai obiettato a nulla. Don Lorenzo Milani, 22 febbraio 1965. Oh, vedi, questi siamo noi. Stiamo dentro a un villino. Siamo tutti contenti. Senti che dice. Stretti intorno alle stufe da campo, i nostri soldati ingannano con musica e canti le lunghe ore di attesa in questo periodo di stasi delle operazioni. Oh, a questi dispiace, c'è il periodo di stasi. La gente crede che la guerra si dura solo quando che si spara. Noi sa quanto si duro a star fermi qua, col dadrio bagnà, a aspettare il lancio che non arriva mai. Facciatemi rendere! La guerra non è altro che un lungo ozio senza un minuto di riposo. A proposito, che ora l'è? Boh. L'ultima volta che hanno portato il lancio canto era giovedì. Ecco, queste sono le cose che dovrebbero scrivere. Noi siamo qua e quelli che scrive chi sta a casa. Stiano pure a casa, basta che non continui a scrivere balle su più giornali. Non parlo per me, ma per quei poveracci che sanno leggi. Ma va, se me lo vivere un giorno de peon che sento anni de leon. Ma Giovanni, che giochi qua la sigaretta. Dai. Tanto i morti. Potrei dire una cosa giusta sulla guerra, ma quelli non parlano. La guerra, noi non possiamo sapere se si deve fare o non si deve fare. Stai zitto, Africa. Sono secoli che la gente si scanna con le guerre, non è mai servito a niente. In piena facoltà, egregio presidente, e scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene importerà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. La guerra giova all'agricoltura e alla modernità. I campi di battaglia rendono, ma molto, per molti anni, assai più di prima, senza alcuna spesa di concio. Che bei cavoli mangeranno i francesi dove si massarono i fanti tedeschi. E le patate grasse che si caveranno in Galizia quest'altro anno. Il fuoco degli scorrimenti, il drutamento dei mortai farà piazza pulita fra le vecchie case e le vecchie cose. Quei villaggi sudici che i soldatacci incendiarono verranno rifatti, più igienici. E non mancheranno sempre le troppe chiese gotiche, le troppe cattedrali, le troppe biblioteche, i troppi castelli per i rapimenti e i rompimenti dei viaggiatori e dei professori. Dopo il passo dei barbari s'apre un'arte nuova e le guerre di sterminio lasciano il passo a un'arte, a una moda, diverse. Ci sarà sempre da fare per tutti se il fuoco dell'arte di creare verrà ringagliardito e eccitato dalla distruzione. Amiamo la guerra e assaporiamola da buon gustai. Finché dura. Giovanni Papini, 1 ottobre 1914. Sono perplesso, non regge per 11 giorni, si è scopata una ragazzina. No, una guida scout. Beh, non fa una grande differenza, voglio dire che vuol fare, cancellarla? Mi scusi, prendo il mio frullatino. E da cosa pensa potrebbe essere cancellata? Da niente, niente, niente, è impossibile cancellarla, potrebbe riuscirci, che so, una guerra forse. Abbiamo dovuto mascherare antica Babilonia come operazione umanitaria, perché altrimenti dal colle non sarebbe mai arrivato il via libera. Gustavo Selva, presidente della Commissione Difesa della Camera, al quotidiano Libero, 21 gennaio 2005. esseri umani riconoscono il diritto alla rivoluzione, vale a dire il diritto di rifiutare obbedienza e resistere al governo quando la sua tirannia o la sua inefficienza sono grandi e intollerabili. Ma quasi tutti dicono che noi non ci troviamo in questa situazione. Tutte le macchine governative presentano attriti ed è possibile che si produca una quantità sufficiente di effetti positivi da controbilanciare quelli negativi. In ogni caso, è un grande errore agitarsi a causa di ciò. Ma quando l'attrito giunge ad avere strumenti suoi propri e l'oppressione e il ladrocinio sono organizzati, io sostengo che dobbiamo gettare via quella macchina immediatamente. In altre parole, quando un sesto della popolazione della nazione, che si è impegnata ad essere il rifugio della libertà, è composta da schiavi, e un intero paese è giustamente invaso e conquistato da un esercito straniero e soggetto a legge marziale, io penso che non è troppo presto per le persone oneste ribellarsi e fare la rivoluzione. Ciò che rende questo dovere ancora più urgente è il fatto che il paese invaso non è il nostro, ma nostro è l'esercito invasore. Henri David Thoreau sul dovere della disobbedienza civile, 1848. Se uscissimo vivi da questa avventura, per quanto afflitti, impoveriti, invecchiati, e la magia di un supremo taglione ci desse il potere di chiamarli a rispondere uno per uno, loro, i caporioni del crimine universale, che sopravvivono sempre, e potessimo rinchiuderli nelle loro chiese, e lì, come hanno fatto ai vecchi serbi, estrarre a sorte una condanna a morte ogni 10. E poi non ucciderli, no. Schiaffeggiarli. E poi dire loro: ma come? Non lo sapevate? Non lo immaginavate? Che a seguito di una dichiarazione di guerra, tra le varie possibilità di orrore e di vergogna, c'è anche quella che ai bambini manchi il latte, ai cavalli la biada. Vabbè, i cavalli. Che anche molto, molto lontano dagli spari si può diventare ciechi per l'alcol metilico. Ma come non avevate misurato quanta angoscia c'è in un solo attimo di tormento di una prigionia che dura anni, di un sospiro, della nostalgia, dell'amore lordato, conculcato, assassinato. Non siete stati capaci neanche di immaginare quali inferni si dispieghino a ogni attimo di tormento delle madri che tendono l'orecchio giorno e notte, che attendono anni la morte dell'eroe. E non vi siete accorti di come la tragedia si trasformasse in farsa? E non vi siete accorti di come il più piccolo provvedimento della vostra ossessione avrebbe impresso sulla dignità umana un marchio indelebile di infamia? E non avete pensato che se aveste messo l'uniforme a tutti gli uomini, questi si sarebbero dovuti salutare continuamente l'un con l'altro, continuamente? E non avete pensato che questo gesto un giorno non sarebbe diventato altro che quel tocco alla fronte che indica il dubbio sulla reciproca sanità di mente? Da che mondo è mondo? Perché si fanno le guerre? Per assicurarsi la pace. È raro che si faccia una guerra per arrivare alla guerra. Forse l'unico caso del genere che la storia registrerà sarà quello della Seconda Guerra Mondiale, in cui pare che tutto sia stato fatto apposta, col più lodevole zelo, per arrivare alla terza. Ma speriamo, no, che nonostante gli sforzi generali non ci si arrivi. Allora voi direte, ma se per assicurarsi la pace occorre fare la guerra, non sarebbe meglio rinunziare alla pace? Almeno non si farebbero le guerre. No. Perché se non si fanno le guerre, che servono per evitare le guerre, arrivano le guerre. Per evitarle bisogna farle. Se non si fanno, vengono. In ogni caso, guerra. Al massimo si può scegliere se convenga di più fare la guerra che si vorrebbe evitare o quello che serve ad evitarla. Comunque non si è mai vista una pace che venga durante la pace. Anzi. Al contrario, sono le guerre che vengono durante la pace. La pace è come la salute. Uno stato di cose che non fa presagire niente di buono. Achille Campanile, conferenza tenuta presso il Circolo degli Ufficiali il 16 dicembre 1950. Venite, padroni della guerra, voi che costruite armi di ogni genere, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, io voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, voi vi divertite con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi e vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Come Giuda dei tempi antichi voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta. Voi volete che io creda, ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Avete causato la peggior paura che mai possa spargersi. Paura di portare figli in questo mondo, poiché minacciate il mio bambino, non nato e senza nome. Voi non valete il sangue che scorre nelle vostre vene. Che cosa sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono giovane, direte che non ne so abbastanza. Ma c'è una cosa che so, anche se io non sono più giovane di voi. So che non c'è Cristo che perdonerebbe quello che fate. Io voglio farvi una domanda, ve la faccio adesso. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima. E spero che moriate e che la vostra morte giunga presto. Io seguirò la vostra bara in un pallido pomeriggio e guarderò mentre vi calano giù nella fossa e starò sulla vostra tomba finché non sarò sicuro che siate crepati per davvero. Gli eserciti permanenti devono con il tempo scomparire del tutto. Infatti, pronti come sono a mostrarsi sempre armati a questo scopo, minacciano costantemente di guerra gli altri stati e spingono questi a superarsi a vicenda nella quantità degli armati, che non conosce limiti. E poiché, con i costi che ciò richiede, la pace diventa alla fine ancor più pesante di una breve guerra, sono allora essi stessi causa di guerre e di aggressione per liberarsi da questo scopo. Nessuno Stato può intromettersi con la violenza nella Costituzione e nel governo di un altro Stato. Immanuel Kant, 1795. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, national morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy that hold our brothers. I mezzi di comunicazione di massa. La stampa, la radio, portano all'asservimento dei corpi, ma anche delle anime, ad un'autorità strategica mondiale. E proprio in questo sta la maggior fonte di pericolo per l'umanità. Perché le moderne democrazie, che in realtà nascondono i regimi tirannici, utilizzano i mezzi di comunicazione, ma come strumenti di disinformazione e di stravolgimento delle coscienze degli uomini. E tutto questo per alimentare la paura, in funzione delle guerre preventive. Il potere del denaro depreda le nazioni in tempo di pace e cospira contro di esse in tempo di avversità. Il potere del denaro è più dispotico della monarchia, più insolente dell'autocrazia, più egoista della burocrazia. Vedo avvicinarsi una crisi nel prossimo futuro che mi innervosisce e mi fa tremare per la salute della mia nazione. Le corporazioni sono salite al trono. Seguirà un'era di corruzione e il potere monetario del paese si impegnerà per prolungarne il regno. Lavorando sui pregiudizi del popolo, fino a che il benessere sarà concentrato nelle mani di pochi e la Repubblica verrà distrutta. Abraham Lincoln. Tutti siamo consapevoli di quanto sia difficile e minacciosa la situazione in cui versa la società umana, che è stretta in un'unica comunità, con un destino comune. Però solo pochi agiscono tenendo presente questo. La maggior parte delle persone continua a vivere così la propria vita ogni giorno. Una metà spaventati e l'altra metà indifferenti. E stanno lì, che guardano la spettrale tragicommedia che viene interpretata sulla scena internazionale, sotto gli occhi e le orecchie di tutto il mondo. Su quella scena, dove ci sono gli attori che sotto i riflettori interpretano dei ruoli stabiliti, su quella scena si decide il nostro destino di domani, la vita e la morte delle nazioni. Albert Einstein, 1956. Io non creo niente, io posseggo. E noi facciamo le regole, le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Una delle più orribili caratteristiche della guerra è che la propaganda bellica è che tutte le vociferazioni, tutte le menzogne, gli odi provengono inevitabilmente da coloro che non combattono. George Orwell. La guerra trasforma la vita in un asilo infantile, dove è sempre l'altro che ha cominciato, dove uno si vanta dei misfatti che rinfaccia all'altro e la zuffa assume le forme del gioco dei soldati. Karl Kraus. Se le leggi di Norimberga fossero attuate ancora oggi, ogni presidente americano del dopoguerra sarebbe stato impiccato. Noam Chomsky. In guerra la prima vittima è la verità. Gustav Asford. A crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was, is still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive. And he has built a society along these lines. Sono lieta, in mezzo alle mie tristezze mediterranee, di essere qui. A dirvi com'è bello pensare strutture di pace e gettarle come reti aeree sulla terra, perché essa non sia più quel luogo buio e perduto che a molti appare, o quel luogo di schiavi che a molti si dimostra se vengono a occupare i linguaggi, il respiro, la dignità delle persone. A dirvi com'è buona la terra, è il primo dei valori, è da difendere in ogni momento, nei suoi paesi, dovunque vi siano gli occhi che vi guardano con pace o paura. Là vi è qualcosa di celeste e bisogna onorarlo e difenderlo. So questo, che la terra è un corpo celeste, che la vita che vi si espande da tempi immemorabili è prima dell'uomo, prima ancora della cultura, e chiede di continuare a essere. Io auspico un mondo innocente. So che è impossibile perché una volta, in tempi senza tempo e fuori dalla nostra possibilità di storicizzare e ricordare, l'anima dell'uomo ha perso una guerra. Vivere non significa consumare, e il corpo umano non è luogo di privilegi. Tutto è corpo. E ogni corpo deve assolvere a un dovere se non vuole essere nullificato. Deve avere una finalità che si manifesta nell'obbedienza alle grandi leggi del respiro personale e del respiro di tutti gli altri esseri viventi. E queste leggi, che sono la solidarietà con tutta la vita vivente, non possono essere trascurate. Quando la pace e il diritto non saranno solo per una parte dei viventi e non vorranno dire solo la felicità e il diritto di una parte e il consumo spietato di tutto il resto, solo allora, quando anche la pace del fiume e dell'uccello sarà possibile, allora saranno possibili e facili come un sorriso anche la pace e la vera sicurezza dell'uomo. Anna Maria Ortese, Il Corpo Celeste, 1997. Ormai l'unico onore è nel mantenere ostinatamente viva la formidabile scommessa che alla fine deciderà se le parole sono più forti dei proiettili. Albert Camus, Né vittime né carnefici, novembre 1946. Sai, Elon, cominciare una rivoluzione è difficile. Anche più difficile continuarla. È difficilissimo vincerla. Ma è solo dopo, quando avremo vinto, che cominceranno le vere difficoltà. serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che le cose vanno male, abbiamo una crisi. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. I negozianti tengono il fucile nascosto sotto al bancone. I teppisti scorrazzano liberamente per le strade. E non c'è nessuno che sappia cosa fare. Non se ne vede la fine. Sappiamo che la nostra aria, ormai, è irrespirabile. Che il nostro cibo è immangiabile e noi ce ne stiamo seduti davanti alla TV a guardare il nostro cronista locale che ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, ma più che male, è la follia. È come se tutto, dovunque, fosse impazzito, così che noi non ne usciamo più. Allora ce ne stiamo chiusi in casa e lentamente il nostro mondo diventa sempre più piccolo e diciamo soltanto: almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta e io non dirò niente, lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che vi incazziate. Io non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate o che scriviate al vostro senatore, perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non lo so che cosa fare per combattere la crisi, l'inflazione, i russi. Io so soltanto che prima vi dovete incazzare. Dovete dire: io sono un essere umano. E porca puttana, la mia vita ha un valore! Quindi, voglio che vi alziate. Ora. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Ecco, voglio che vi alziate proprio adesso, che andiate alla finestra, che la apriate e urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voci nel deserto, frammenti di libertà di pensiero, da un'idea di Marco Melloni, un collettivo di oltre 70 attori a rotazione. Musica di DJ Tuppi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessia Esposito, direttrice artistica della rassegna di arte, teatro e musica Mi illumino di teatro a Garbatella, all'829B, dal 1 al 7 agosto 2023. Ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontiamo cos'è. Mi illumino di teatro a Garbatella è una rassegna di musica, teatro, arte in generale, che cerca di coinvolgere il pubblico del quartiere, ma non solo, ovviamente, nelle calde sere d'estate. Tra i vari appuntamenti c'è anche un laboratorio per bambini, in collaborazione con la libreria del quartiere Eco di Fata, che si svolge a luglio, mentre le serate di musica e teatro sono tutte nel cortile dell'829B, che è un lotto storico della Garbatella vicino a via Massaia, con ingresso a via Giovanni De Marignolli, dall'1 al 7 agosto alle ore 19:30, quindi al tramonto. Come era nato tutto? È nato per riportare un pochino il teatro tra la gente in seguito alla pandemia, perché questa è la seconda edizione. La prima edizione è nata nel 2022, sempre con un bando estate romana, e appunto eravamo usciti dal pieno dell'isolamento, ovviamente, ma anche delle capienze contingentate, eccetera, e avevo notato che le sale dei teatri erano un pochino scariche, e quindi ho pensato: perché non portare il teatro a casa della gente, e nella fattispecie proprio dentro un cortile di case popolari dell'Ater. Com'è stata la scelta artistica? Cerca di coniugare il teatro contemporaneo di qualità con un'attenzione anche a una semplicità di linguaggi, e cerca di coinvolgere un pubblico diversificato, quindi per questo ci sono spettacoli per bambini e teatro ragazzi e appunto testi di drammaturgia contemporanea e anche musica e concerti. Come è articolata una singola giornata? Lo staff arriva nel cortile tutti i giorni intorno alle 3 o alle 4, a seconda di com'è la convocazione dello spettacolo, e porta tutti gli allestimenti, che in realtà sono pochi perché sono tutti allestimenti leggeri, scegliamo spettacoli a basso impatto ambientale, e quindi monta e poi alle 7:30 si dà il via alla serata. Intorno alle 7 incomincia ad arrivare il pubblico, noi chiediamo alle persone di portarsi la sedia da casa, tra virgolette, ovviamente mettiamo a disposizione dei teli e delle stoline, però ci piace pensare che questi appuntamenti vengano vissuti come una sorta di picnic teatrale, e quindi chiediamo alle persone di portarsi le sedute, ed effettivamente fanno così, ci sono le signore del quartiere che vengono con le sdraiette, c'è chi viene con il proprio telo, c'è chi si porta un bicchiere di vino, chi si fa l'aperitivo e si condivide un momento di socialità. Sono più eventi per ogni giornata? No, un solo evento di spettacolo, però all'interno del lotto quest'anno c'è un'installazione video. Abbiamo chiesto a un artista e una curatrice, Pietro Angelini e Gaia Petronio, di analizzare il quartiere, di girare per il quartiere in una residenza nel mese di luglio e di cercare di indagare qual è la visione della Garbatella del futuro degli abitanti del quartiere. Quindi hanno raccolto diverse testimonianze che ci raccontano quali sono le visioni degli abitanti per quello che è la Garbatella da qui ai prossimi 20-30 anni, quindi come se la immaginano, e sta per arrivare un video in cui ci verrà raccontata la Garbatella del futuro. Quindi c'è questa installazione fruibile a tutti all'interno del lotto, ci sarà un televisore al plasma con delle cuffie wireless che si potrà indossare prima di vedere gli spettacoli, e quindi si potrà ascoltare che cos'è la Garbatella del futuro secondo gli abitanti della Garbatella stessa. E poi c'è uno spettacolo per ogni sera. Un bilancio della prima edizione? È stato molto positivo perché ci siamo divertiti, è stato bello stare nel lotto insieme agli abitanti del quartiere che hanno apprezzato, e uno dei risultati più belli è stato proprio l'ultimo giorno quando siamo andati via, abbiamo smontato, una delle signore che abita là nel cortile dell'829, una vecchietta, ci ha detto: ma che ben andate, e mo come famo, noi ci avete fatto tanta compagnia. Quindi comunque, ecco, l'idea della socialità e dello stare insieme è rimasta, e quando quest'anno ci hanno riviste, perché siamo andate ovviamente ad annunciare in anteprima il programma agli abitanti dell'otto, sono stati tutti molto contenti di sapere che avremmo passato insieme a loro di nuovo una settimana d'agosto. Tutti i riferimenti web per il programma? Su www.369gradi.it e sulle nostre pagine social Facebook e Instagram. La seconda edizione della rassegna di arte, teatro e musica Mi illumino di teatro a Garbatella a Roma all'829B dal 1 al 7 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessia Esposito. A presto! Ciao! Con Elena Guerrini, ideatrice e direttrice artistica della 17ª edizione del Festival Aveglia Teatro del Baratto a Manciano e dintorni dal 1 al 10 agosto 2023, ben trovata. Ciao, ciao Federico, sei sempre il nostro vicino di casa, radiofonico. Spieghiamo qual è la caratteristica principale del Festival. Sì Federico, quest'anno il tema è casa, per questo ti ho chiamato vicino di casa, e gli artisti sono un po' la nostra famiglia artistica, perché Manciano per 10 giorni si trasformerà in uno spazio scenico itinerante dove ci saranno 2 laboratori, 4 concerti, 4 presentazioni di libri, 4 spettacoli teatrali, 2 conferenze spettacolo, 2 passeggiate e il film Il Teatro e Paese proiettato a Clorofilla Film Festival. Com'era nato questo festival? Raccontiamolo a chi non lo conoscesse. Il festival è nato ben 17 anni fa, è quasi maggiorenne, tu ne sei un testimone fin dalla primissima edizione. Era nato prima con Orti Insorti, la mia narrazione che andava di podere in podere, ed è stata un'esperienza perché mi facevo pagare in baratto e per 2 anni non ho materialmente fatto la spesa, non sono entrata in un supermercato a comprare generi alimentari. Da questa mia idea di Orti Insorti di 17 anni fa, poi si è mutuata nel festival, perché molti artisti amici, quando mi sentivano raccontare l'esperienza di Orti Insorti, hanno voluto provare. Tra gli artisti amici c'era Marco Paolini, Monio Vadia, Ginevra Di Marco, Andrea Cosentino, Iaia Forte, artisti che volevano provare l'esperienza di fare teatro come teatro alle origini, quindi senza grandi palchi, senza macchinerie tecniche, perché per riportare il teatro a quello che era alle origini era proprio il teatro e il pubblico, e appunto il biglietto d'ingresso non è monetario, ma un dono, olio, vino, formaggio e miele da dare in baratto agli artisti, contribuendo all'economia circolare del territorio in un festival a Veglia, Teatro del Baratto, dove l'arte nutre il territorio e il territorio nutre l'arte. Com'è stata la scelta artistica di quest'anno? Un festival è come un parto, più o meno ci metto 9 mesi a selezionare gli artisti, sono stati sia spettacoli visti, sia spettacoli arrivati tramite una call sui social fatta a febbraio, sia spettacoli consigliati, quello con cui apriamo e chiudiamo il festival, da Miriam Verdecchi, che collabora al festival a Veglia come organizzazione e comunicazione ed è anche maestra di canto del coro Cantori di Semia, perché si è creato quest'anno un coro nel nostro comune multigenerazionale di canti popolari, e quindi questo coro e in particolare la direttrice del coro collabora attivamente al festival, e nella parte organizzativa c'è anche consigliando degli spettacoli visti che poi appunto sono stati quelli di apertura e chiusura del festival. Come si svolgeranno le giornate? A partire dalla mattina con delle colazioni social che si chiamano colazioni teatrali, dove insieme al nostro gruppo social, gli offline di Biella, faremo un punto della situazione di quello che è stato il festival la mattina nei bar. Poi con il pomeriggio dalle 4:30 alle 6:30 il corso di scrittura tutti i giorni di Rumi N. Crippa, un corso di scrittura poetica di Rumi Crippa, che è un nomade digitale, filosofo e poeta che vive alle Canarie, viene qua per 6 giorni per fare questo corso di scrittura poetica a baratto. E poi inaugureremo con un aperitivo con i Cantori di Semia al ristorante Rifugio, quindi ogni giorno ci saranno aperitivi teatrali, in questo caso appunto questo cantato, e la prima sera apriamo con Claudio Morici da Propaganda Live, quello di Alexa, quello dei monologhi casalinghi, e essendo il nostro tema casa, lui inizierà con 7 racconti al metro quadro, a casa di Aldo e Mietta Cavoli, via Costa della Società, che ormai è diventato per Manciano un teatro stabile, perché se ben ricordi ogni anno facciamo uno spettacolo in quel luogo. Ci sarà anche un altro laboratorio di teatro con Valentina Bischi e la sua compagnia, MAP, Museo degli Amori Perduti. Quest'anno ci sarà anche una passeggiata artistica su Pascutti, il pittore di casa, con Mauro Papa, un concerto dei fumetti a poderi di Montemerano con gli Una, Zenia chiuderà il festival con suoni e storie di un paese immaginario a casa di Jacopo Milanesi nella piazza del castello di Montemerano il 10 agosto, ci sarà anche uno spettacolo per bambini, Cappuccetto Rosso di Zacche Teatro, e uno spettacolo all'alba alle Cascate di Saturnia la mattina del 5. Presentazioni di libri con Sasha Naspini alla Marsigliana e un concerto di teatro canzone con Carla Baldini. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Il sito avvegliateatrodelbaratto.it, Instagram Teatro del Baratto e Facebook Festival Avveglia Teatro del Baratto. E un numero WhatsApp per iscriversi, confermare, iscriversi soprattutto ai 2 laboratori, ci sono ancora dei posti, 339-8512-693. 17ª edizione del Festival Avveglia Teatro del Baratto, dal titolo Casa, a Manciano e dintorni dal 1 al 10 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Elena Guerrini. A presto! Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Con Chiara Acquaro, co-direttrice artistica della sesta edizione di Castelli in Aria Festa Pop, dal titolo Farsi Fuoco, ad Alvito, al Castello Cantelmo, dal 2 al 6 agosto 2023. Ben trovata. Grazie, ben trovati a voi. Che cos'è questo festival? È una festa vera e propria, nel senso che ha come focus la creazione di una comunità. Quindi si rivolge al territorio di Alvito e della Valle di Comino e prevede non solo spettacoli, concerti, DJ set, ma anche una serie di attività che ci permettono di incontrare gli abitanti della valle e di vivere delle esperienze legate al territorio, quindi passeggiate, escursioni, pranzi comunitari. È un modo per stare insieme. Com'era nato tutto? Nasce tutto dalla volontà di delocalizzare dei processi culturali che per noi erano legati alla città di Roma, quindi a una capitale che è ricca di proposte, a un territorio molto caro a noi perché Livia Antonelli, che è una delle socie fondatrici, è legata a questi luoghi perché sua nonna è di qui. Quindi eravamo innamorati di questo castello medievale che sorge sulla rocca di Alvito e volevamo in qualche modo valorizzarlo e anche portare del teatro contemporaneo in un territorio meraviglioso come la Valle di Comino, che manca però di proposte culturali simili. Com'è stata la scelta artistica quest'anno? Ogni anno parte dal claim. Quest'anno è Farsi Fuoco, vuole essere un invito, un grido di battaglia alla vita e alla responsabilità di agire nel presente. Parte da un impulso, questo ragionamento che abbiamo fatto quest'anno insieme a Niccolò Matkovic, a Naida Cortese e la già citata Livia Antonelli, perché ci siamo resi conto che il presente è davvero un paesaggio in cui è difficile muoversi e agire spesso. Quindi più che una scelta artistica legata a delle tematiche, abbiamo voluto invitare degli artisti che secondo noi hanno molto a che fare con questo impulso vitale all'azione, alla responsabilità. Quindi è davvero molto vario il programma, non segue un criterio tematico ma proprio un criterio di vicinanza rispetto a questa esigenza di ardere, di essere presenti. Come saranno articolate le giornate? Per ogni giornata ci saranno delle attività extra, le chiamiamo così, sono o passeggiate o open class di yoga o escursioni o camminate insieme, momenti, ad esempio la scherma dedicata ai bambini, quindi una serie di attività che non sono propriamente artistiche ma che appunto dialogano con il territorio. Dopodiché abbiamo sempre due spettacoli, un concerto e in apertura e in chiusura un DJ set. Quindi dalle 18 iniziano gli eventi su al castello di Alvito e finiamo verso mezzanotte, l'una, le due, dipende. Visto che siamo alla sesta edizione, come si sta sviluppando il festival? La novità che ci ha fatto molto piacere di quest'anno è una collaborazione all'organizzazione, quindi durante l'anno abbiamo creato una rete di sostegno e di lavoro con delle organizzazioni del territorio. Ne cito due, DMO, Valle di Comino e Living Sociaria. Per noi è molto importante creare una sinergia con il territorio, appunto, diciamo da anni che siamo ospiti di questo luogo e non vogliamo colonizzarlo con una proposta artistica che per gli abitanti di qui è nuova. Dicevo, manca il teatro contemporaneo un po' in tutta la sociaria. Quindi questa è una bella novità e anche l'entusiasmo dei bambini e delle bambine di Alvito che hanno saturato il laboratorio di teatro e danza a loro dedicato, quindi abbiamo avuto tantissime iscrizioni per il laboratorio corpo ludico a cura della compagnia italo-francese CNS, quindi sono risposte per noi molto importanti perché è una festa dedicata proprio agli abitanti del luogo che incontrano gli artisti e la nostra comunità e tutto il pubblico che viene anche da fuori. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma? cartellinariafestapop.it. Poi abbiamo il nostro contatto Instagram che è cartellinariafestapop, tutto attaccato. Facebook siamo cartellinaria-festapop. Sesta edizione di Castellinaria Festa Pop, dal titolo Farsi Fuoco ad Alvito, Castello Cantelmo, dal 2 al 6 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Chiara Acquaro. A presto! A presto, grazie mille! Con Chiara Becchimanzi, una delle curatrici della settima edizione di Teatri d'Arrembaggio, all'Anfiteatro del Porto Turistico di Ostia dal 3 al 12 agosto 2023. Ben trovata. Ben trovato Federico, ciao. Per chi non lo conoscesse, raccontiamo cos'è. Teatri d'Arrembaggio, Pirateria in Canti e Castelli di Sabbia è un evento multidisciplinare, un festival, una grande festa di arte, teatro e performance che noi immaginiamo da 7 edizioni possa completare un po' la giornata di mare che vede tanta utenza raggiungere Ostia nel mese di agosto e anche ovviamente per la cittadinanza ostiense. Quest'anno ci siamo dovuti spostare al porto turistico perché al Teatro del Lido, dove di solito si svolge la manifestazione, ci sono i lavori di ristrutturazione, quindi buona notizia anche per il Teatro del Lido. Perciò quest'anno siamo all'Anfiteatro in un periodo più concentrato e dal 3 al 12 agosto Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, che vuol dire pirateria, teatro, stand-up comedy, scena off, musica e burlesque, incanti, spettacoli di teatro ragazzi per bambini e famiglie e Castelli di Sabbia, laboratori per tutte le età. Come era nato il progetto? Il progetto è nato nel 2015 dal gruppo di progettazione che è una costola dell'associazione TDL che gestisce il Teatro del Lido pubblico e partecipato e nasce proprio per dare una continuità alla stagione pubblica culturale di Ostia. Il Teatro del Lido ha una stagione giustamente autunno, inverno, primavera, ci sembrava necessario riempire l'estate anche di spettacoli che potessero intercettare un'ampia fascia di pubblico e in effetti poi dai bambini alle famiglie ai giovani adulti con la da comedy e il teatro diciamo off, cerchiamo di raggiungere proprio uno spettro veramente ampio e nasce con queste linee diciamo così artistiche, ma anche nasce perché tutto ciò che noi facciamo Ostia scaturisce da un dialogo costante con il territorio, fatto sia durante i tavoli di progettazione partecipata che sono gestiti e organizzati dal Teatro del Lido, ma anche attraverso il lavoro individuale che ciascuna associazione fa con i suoi contatti, e quindi proprio da un laboratorio dal basso nasce l'idea dell'Arrembaggio. E questo concetto piratesco ci piace molto perché la manifestazione nasce per intercettare il pubblico durante la sua quotidianità del mare, prima il Teatro del Lido e l'Anfiteatro del Porto Turistico adesso, ma anche perché ci piace proprio questo immaginario piratesco, l'essere fringe dell'arte ci piace molto e quindi proponiamo spettacoli che abbiano un linguaggio contemporaneo e siano anche in qualche modo sperimentali, graffianti, che non abbiano paura di dire le cose e di esprimere un punto di vista. Quindi ecco, questo più o meno sono le direttive che ci siamo dati e date per creare i Teatri d'Arrembaggio. Com'è stata la scelta artistica quest'anno? Quest'anno abbiamo introdotto una nuova arte che non avevamo mai esplorato e cioè il burlesque. Siamo molto felici di avere questo spettacolo contaminato, diciamo così, stand-up comedy e burlesque il 6 agosto con anche un laboratorio di burlesque per giovani adulti, quindi dai 16 anni in su, curato da Azzurro Fumo. E questa è la grande novità insieme alla musica, perché chiuderà la manifestazione Max Paiella il 12 agosto con Boom, è uno spettacolo di teatro e musica. La stand-up comedy si è diciamo sviluppata prendendo i nuovi spettacoli degli affezionati, per i nostri artisti aficionados, cioè Pietro Sparacino che apre la rassegna con Occhiaie, una certa Chiara Becchimanzi che si esibisce col suo nuovo spettacolo Terapia d'urto, Dio padre e famiglia, ecco sto parlando di me in terza persona, quindi sono ovviamente andata. Poi abbiamo Daniele Fabbri con Verità comode, quindi questi diciamo come must. Torna a grande richiesta dall'anno scorso Francesca Puglisi, che è un'attrice e comedian che fa degli spettacoli che mescolano il teatro e la uomini, così un po' anche come me, nel senso che non c'è nulla di rigido nelle linee di teatro d'arrembaggio, è tutto fluido come il mare. Francesca Puglisi ci propone Canisci un affisso il 4 agosto, poi abbiamo appunto il Burlesque, il teatro con Letizia Vallaguerra di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, Teatro degli Incamminati, una storia emozionante, lì invece ci immergeremo nelle emozioni più varie. Poi abbiamo un trio inedito di comedian, i Comici in Piedi, che vengono da lontano, vengono dal nord, Emanuele Tumolo, Pippo Ricciardi e Riccardo Crivellaro, e poi si chiude con Max Paiella il 12, mentre gli Incanti ci propongono Scarpette Strette di Luna Ignacca il 3 agosto, poi avremo il Teatro Mongiovino il 4 agosto con Spari in Soffitta, poi ci sarà Alice del Teatro dei Navigli e il Maestro Ciambello, insomma ci sarà come sempre la grande eccellenza del teatro ragazzi italiano e anche una panoramica più multidisciplinare su tutte le altre arti. Sarà tutti i giorni, la prima domanda, la seconda è come sarà strutturata ogni singola giornata? 3, 6, 9, 12 sono le date. Il 3 agosto è la giornata più campale perché si comincia alle 17 con il laboratorio di body percussion a cura di Rita Superbi, il ritmo e il corpo. Alle 18 si prosegue con il ritmo perché c'è un flash mob a cura della Caracca, tamburi itineranti attraverso tutto il porto. Poi alle 19 abbiamo Luna Ignacca con Scarpette Strette e alle 21 lo spettacolo di Pietro Sparacino, Occhiaie. Questa è l'unica giornata in cui gli orari sono tutti riempiti, ma in generale le giornate cominciano alle 17 con i laboratori, Castelli di Sabbia, proseguono alle 19 con il teatro ragazzi e si concludono alle 21 con le piraterie. Ci sono invece giornate in cui ci sono solo le piraterie, per esempio il 9 agosto per lo spettacolo del Teatro degli Incamminati di Cavalla Guerra, giornate in cui ci sono solo laboratori e piraterie come la mia il 5 agosto per Comedy e lo spettacolo Terapia d'urto la sera. Insomma, quest'anno è un programma che va guardato prima di partecipare. Diciamo che abbiamo dovuto, proprio per la questione dei lavori di ristrutturazione del Teatro del Lido, modificare la logistica e quindi c'è qualcosa di diverso rispetto alla logistica consueta, ecco. Proprio a questo proposito, ci dai tutti i riferimenti web per il programma? La pagina Facebook Teatri d'Arrembaggio, Pirateria, Incanti e Castelli di Sabbia, Instagram Teatri d'Arrembaggio, c'è il sito www.valdradateatro.it, Valdrada è l'associazione che si fa promotrice e ideatrice del progetto, e poi ovviamente ci sono tutti i siti di Roma Capitale, no? Perché il progetto è inserito all'interno dell'estate romana, quindi trovate tutto anche lì. Gli unici eventi per cui è necessaria la prenotazione sono i Castelli di Sabbia, perché i laboratori sono a numero chiuso, e quindi è richiesta la prenotazione all'indirizzo mail valdradateatro@gmail.com. Settima edizione di Teatri d'Arrembaggio all'Anfiteatro del Porto Turistico di Ostia dal 3 al 12 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Becchimanzi. A presto! Grazie a te Federico, a presto! Con Adele Orioli, coautrice del libro Cerimonie uniche, guida teorico-pratica per celebrazioni non religiose, ben trovata. Ben trovato, grazie. Di cosa si tratta? Come dice il sottotitolo, una guida teorico-pratica. Le celebrazioni non religiose sono in realtà un riappropriarsi dei momenti importanti della vita al di fuori di dogmi precostituiti. Anche in Italia si stanno diffondendo sempre di più, mentre nel resto d'Europa lo sono da decenni. È un'esigenza della natura umana, non di tutti ma di molti, e questo libro è un modo per dare un'infarinatura, una prima impressione sul perché, sul per come, sul cosa si fa quando si fa una cerimonia laica, non religiosa. Com'era nata l'idea del progetto? Il progetto è nato nel 2009 grazie appunto all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che facendo parte anche dell'International Humanist e quindi comunque avendo coscienza e conoscenza di quello che accade anche nel resto d'Europa, ha pensato di importare quello che poi era appunto una tradizione molto più antica delle religioni costituite, e dal 2009 in poi ha dato vita al progetto che adesso si chiama Cerimonie Uniche e che mira a promuovere le cerimonie religiose, non solo i matrimoni, anche i benvenuti, soprattutto i commiati, attraverso anche la formazione gratuita ma altamente professionale di celebranti appunto adeguatamente formati che possano, per così dire, dare una mano, anche se è indicato ma non obbligatorio l'utilizzo del celebrante, ci teniamo a sottolinearlo, anche qui è una questione di autodeterminazione. edizione, insomma. Tre firme per questo libro, come lo avete strutturato? Ma appunto, una guida che crea un percorso per il lettore, sia da dove nasce quest'idea, da dove nasce la ritualità, se è vero che è tipicamente religiosa, insomma, oppure no, e che poi dà qualche consiglio utile proprio entrando nel vivo e nel merito delle singole cerimonie, di come si possono svolgere, di che cosa accade. Per di più presenta anche un altro progetto molto importante, che è quello della mappatura delle sale del commiato, perché purtroppo, nonostante un obbligo legislativo che risale addirittura al 1990, anche avere un commiato laico è sostanzialmente un diritto censuario. Cioè, se si è famosi si può avere anche Piazza del Duomo, se non si è famosi quasi nessun comune lascia spazi adeguati per salutare per l'ultima volta chi appunto vuole essere salutato in maniera laica. Oltre alla morte, a quali altri riti di passaggio fate riferimento? Ovviamente al benvenuto, che è il benvenuto del bambino nella propria comunità di riferimento, nel proprio cerchio di affetti, che non è solo la nascita, può essere anche per l'adozione, alle unioni genericamente intese, non solo tra l'altro fra due persone, ma pensiamo anche alla guarigione da una malattia, al pet funeral, visto che gli animali domestici sono così diffusi, alla transizione di genere. E in generale possiamo dire che le cerimonie laico-umaniste permettono di sottolineare qualsiasi passaggio sia importante per la persona stessa, in maniera appunto celebrativa, con una cerimonia e non semplicemente con una festa o con un nulla, come purtroppo si è costretti a fare pensando di non avere alternative. Ma parafrasando Frankenstein Junior, invece si può fare. Avete avuto alcuni esempi a livello globale come modelli virtuosi? Ci sono paesi che sono modelli virtuosi per loro stessi, anche perché le associazioni, come ad esempio l'UAR, godono di tutti gli stessi trattamenti e privilegi che in Italia siamo abituati a riconoscere esclusivamente alle confessioni religiose, a una su tutti poi particolarmente. Ma in realtà è facile anche creare modelli virtuosi tenendo presente che appunto la cerimonia laico-umanista non solo non ha dogmi né imposizioni precostituite, ma pone sempre comunque al centro della cerimonia in quanto tale la persona che ne è soggetto e protagonista. Farete delle presentazioni? Questa è la prima domanda. La seconda sono i riferimenti web per dei dettagli. Non siamo in realtà ancora usciti, adesso il libro in preordine, ma io so che ad esempio sarò a Catania il 2 settembre, su appuntamenti UAR e anche sul sito della casa editrice www.nessundogma.it si possono trovare comunque tutti gli aggiornamenti. Saremo sicuramente a Napoli per il Book Festival a ottobre, e per qualsiasi altre informazioni appunto sia sul sito della casa editrice Nessun Dogma, ma anche proprio sul sito del progetto, quindi www.cerimonieuniche.it. Il libro Cerimonie uniche, guida teorico-pratica per celebrazioni non religiose. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Adele Orioli. A presto! A presto, grazie! Con Giovanni Germano, coordinatore generale della 29esima edizione di Cammina Molise dal 3 al 6 agosto 2023, ben trovato. Buongiorno a tutti quanti, grazie per l'invito. Ripercorriamo anche stavolta un po' di storia. Questo è il 29esimo anno della manifestazione turistica e socioculturale Cammina Molise. Cammina, virgola, Molise, punto esclamativo, un imperativo, che si fa per andare a conoscere camminando i paesi del Molise, e questo per cercare di dare una mano, non siamo un'associazione culturale, l'associazione culturale alla terra, l'organismo del tutto, per dare una mano ai nostri piccoli paesi di Molise, che purtroppo negli ultimi decenni si stanno completamente spopolando. Quindi tanto gente a camminare, noi siamo convinti che il cammino può essere una risorsa, può creare un turismo mitigato con il cammino, capace di risvegliare un po' l'indotto legato all'artigianato, alla bioagricoltura, alla cultura stessa, dice. Nel corso di tutte queste edizioni li avete coinvolti un po' tutti i comuni? Tutti e 136 sono i comuni molisani, sia quelli un po' più grandi, le cittadine, Campobasso, Isernia, Termoli, come anche tutti gli altri, la maggior parte, tutti i paesini al di sotto dei 1000 abitanti. E li abbiamo camminati tutti, e anche più di una volta. E io personalmente, avendo partito da tutte le edizioni, li ho camminati tutti quanti, quindi ho conosciuto i paesi molisani tutti quanti, veramente camminati. Questa edizione com'è organizzata? Come si svolgerà? Come ogni anno, sono 4 giorni di cammino, inizia il 3 di agosto e finisce il 6 di agosto, da giovedì a domenica. Visiteremo paesi del Molise centrale, tra cui gli Elfi, Macchia Modena, Pantelena, Pannita, Mirabello, Venita, Varanello e così via. Poi c'è anche un campo tenda che sta a Montevideo, vicino a Campobasso, che ospita i più giovani, quelli che sono disposti a dormire sotto le tende, mentre gli altri dormiranno in albergo a Campobasso. Poi la mattina ci sono i pullman che prelevano i marciatori e li portano al paese da dove si inizia a camminare. I pullman seguiranno i marciatori, anche perché c'è bisogno di qualche aiuto. Ricordo sempre che la nostra è una manifestazione che accoglie tutti, bambini, famiglie intere, anche anziani, quindi c'è bisogno di un supporto continuo. Quindi tra 4 km si incrociano i pullman, chi non ce la fa può salire anche sul pullman. Quella sera il pullman, dopo la festa che si organizza nel paese dove si arriva, i pullman riportano i marciatori in albergo o a Campobasso. Le diverse tappe quanti chilometri copriranno? Le tappe adesso, dopo tanti anni, le abbiamo ridotte, insomma, intorno ai 10-15 km al giorno. Quindi sono percorsi abbastanza facili, percorsi che sono stati studiati lungo i tratturi, lungo i vecchi sentieri che percorrevano i nostri contadini, tutte le carrarecce, difficilmente basti sull'asfalto, quindi sentieri anche imbranati, e poi da sentieri che collegano i vari paesi che poi andremo a visitare. Questa è la caratteristica di questa manifestazione. Siccome si organizza insieme alle amministrazioni comunali, che sono interessanti, alle associazioni locali, quindi le Proloco e altro, si organizzano le accoglienze nei paesi, no? E poi si organizzano le carte delle itineranti, la visita al paese, spesso ci sono i gruppi politici che ci accolgono, insomma è un cammino conviviale, festoso e che offre punti di conoscenza. Per tutte le informazioni del programma ci dai riferimenti web? Noi abbiamo il nostro sito che si chiama laterra.org. Poi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Gli Amici di Cammino Molise. Viene gente un po' da ormai da tutte le parti d'Italia. Poi un'altra cosa interessante, siccome noi siamo progregatrici nei nostri tutti i paesi, io stesso sono originario di uno di questi paesi, sappiamo che anche all'estero c'è questa voglia di tornare, specialmente alle generazioni nuove, no? Di diversi di molisani che figli e nipoti, i nipoti di molisani immigrati ormai da anni fa, c'è questa voglia di tornare a visitare i nostri paesi di origine, no, no? Quindi organizziamo, sono 6 anni che lo facciamo, un cammino a Molise per esempio in Argentina, e lo abbiamo fatto in tutte le città più grosse dell'Argentina, ogni anno una città diversa. Quindi c'è questo collegamento delle varie associazioni molisane in Argentina che sta producendo dei frutti proprio per stimolare un turismo d'intorno, un turismo nelle radici. Il prossimo anno, che celebreremo il 30° anno, molti argentini verranno con noi a camminare tutti loro. 29ª edizione di Cammina Molise, dal 3 al 6 agosto 2023, un saluto e un ringraziamento al coordinatore generale Giovanni Germano. A presto! Grazie. con Angelo Gagliani della campagna per il clima Fuori dal Fossile per presentare lo Stuni Climate Camp dal 1 al 6 agosto 2023. Ben trovato. Ciao, ben trovato a tutti. Partiamo dalle sigle, dalle realtà che organizzano il campeggio, ce ne parli? Lo Stuni è in provincia di Brindisi, lo stiamo organizzando come movimento Not Afnam di Brindisi insieme ai COBAS, i lavoratori dello spettacolo, alla federazione COBAS nazionale e alla campagna per il clima Fuori dal Fossile, che raggruppa tantissime associazioni e comitati italiani che si battono contro i gasificatori, contro tutto quello che sta succedendo, insomma il fossile eccetera. Siamo alla terza edizione e in realtà quest'ultimo anno abbiamo avuto, rispetto all'anno scorso, tantissime novità in questo anno, cioè c'è stato il governo Meloni, poi il gas, col governo Draghi era un'emergenza per cui saremmo rimasti al freddo l'inverno, la proposta di chiudere le scuole il sabato, eccetera. Invece col governo Meloni è cambiato tutto, perché ora vogliamo invece diventare esportatore di gas, cioè hub mediterraneo del gas, per cui cambiato completamente tutto il racconto che ci fanno e vediamo le conseguenze con i disastri di questi giorni, insomma. Come nasceva la prima edizione del campeggio? È nata proprio per aprire un dibattito sui temi della guerra, dell'energia e del fossile in generale, perché è nata appena dopo il Covid, per cui dovevamo dare una risposta collettiva. Tanti problemi che c'erano 3 anni fa, ma sembra passato un'eternità dell'ultima edizione di 3 anni fa. Questa come sarà articolata? Abbiamo concentrato ogni giorno un focus, un tema. Martedì 1, 1 agosto, si parlerà di grandi opere inutili, avremo i collegamenti anche con Inno Ponti, Inno Mos, la rete Adriatica SNAM, ci saranno i rappresentanti dei vari comitati, Inno Gasdotto SNAM, Comitati di Ravenna, eccetera. Anche perché in questi giorni, questi ultimi mesi, sono arrivati le lettere ai proprietari di tutto il percorso da Sulmona a Minervio, per fare questo ennesimo gasdotto che si chiama linea Adriatica SNAM, che passerà dalle zone terremotate, le zone alluvionate di Ravenna, insomma sono quasi 400 chilometri di nuovo gasdotto che vogliono fare. Poi il giorno 2, mercoledì, si parlerà di acqua, energia e clima. Abbiamo partecipato 2 settimane fa al campeggio che c'è stato a Rieti per l'acqua, anche lì invece di mettere soldi per aggiustare le condotte dell'acqua e l'acquedotto, il governo ha pensato bene invece a fare nuove trivellazioni sulle falde, perché dalla zona di Rieti arriva una buona parte dell'acqua che arriva a Roma, per cui ci saranno anche lì tanti ospiti, anche dalla Spagna. Poi giovedì 3 parleremo di appunto GNL, metano, trivelle, idrogeno, perché ora la nuova scusa delle compagnie è non tanto costruire nuovi gasdotti, ma idrogenodotti, cioè praticamente sono sempre dei gasdotti che vengono riconvertiti a trasportare anche idrogeno, però in una quota del 5%, cioè il 95% comunque sarà metano. E questo perché se no non avranno più accesso ai fondi europei, della banca, delle opere di investimenti, eccetera. E questa politica di nuove infrastrutture viene chiamata low carbon, cioè un po' meno di carbonio, perché oltre al metano c'è anche una piccola parte di idrogeno. E ci collegheremo con tante ONG e realtà europee, dalla Spagna alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, perché questo racconto dell'hub del gas e della necessità di avere nuovi rigassificatori per il GNL non è solo in Italia questo racconto, ma c'è un po' in tante nazioni europee. Infatti ci chiederemo tutti insieme, facendo un po' rete, se tutti vogliono diventare hub del gas europeo a tutte queste nazioni. A chi venderemo tutto questo gas? Cioè, se siamo tutti esportatori, chi lo importerà? E poi, sempre lo stesso giorno, la seconda parte molto interessante, ci chiederemo ma quali sono le alternative? Cioè, si parla di e-fuels, di syngas sarebbe gas sintetico, eolico, fotovoltaico, biomasse, dobbiamo un po' fare il punto e dire quali secondo noi sono le fonti che vanno bene, con quali limitazioni e quali invece non vanno bene. Sicuramente le CER, le comunità energetiche che stiamo già sponsorizzando da 3 anni sono un'ottima soluzione, ecco, si parlerà di questo. Poi il 4 parleremo di guerra e energia, ci sarà anche Antonio Mazzeo, perché i due temi sono strettamente collegati, per cui è importante metterli insieme. Noi siamo stati a Coltano, vicino Pisa, 2 settimane fa al campeggio contro la militarizzazione dei territori, e lì abbiamo già costruito un primo appuntamento che sarà il 21 ottobre a Pisa. Poi sabato faremo la nostra assemblea nazionale della campagna per il clima fuori dal fossile, per vedere la fase attuale, insomma, le prospettive di lotta. E poi domenica è la giornata di mobilitazione contro la guerra e il nucleare, per cui faremo anche una manifestazione, dei sit-in, eccetera. Sono previste poi altre attività. Noi qui a Brindisi abbiamo la mega centrale a carbone di Enel, che secondo il decreto Draghi dell'emergenza energetica sta andando a tutta. Cioè sta bruciando carbone come 10 anni fa, 15 anni fa, senza aver fatto nessuna modifica agli impianti, e sta continuando a farlo, cioè lo farà fino al 2025, anche se ormai questa emergenza energetica non c'è più. E poi ricordiamo che con le centrali a carbone c'è anche quella di Civitavecchia, c'è quella di Fusina, c'è quella di La Spezia, siamo in rete con queste realtà. Il carbone non ha avuto quelle speculazioni sul prezzo, per cui il prezzo è rimasto più o meno uguale. L'energia invece, il costo dell'energia è triplicata, per cui di fatti in questi anni ha triplicato i propri profitti. Dopo le dismissioni a Brindisi abbiamo chiesto, per Brindisi e Civitavecchia, di decarbonizzare, che non vuol dire passare al metano come pensa qualcuno, ma vuol dire creare gigafactory per fotovoltaico, sfruttare insomma l'impianto in modo diverso. E Enel ci ha risposto che non ha soldi per fare questo, cioè che assurdo, dopo tutti i profitti che ha fatto qua a Brindisi e tutto quello che ci ha inquinato, e purtroppo se ne parla poco anche di questo, per cui faremo sicuramente un'azione anche davanti alla centrale di Cerano. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? postuniclimatecamp.wordpress.com. Invece il nostro sito di Fuori dal Fossile della campagna è fuoridalfossile.it. Terza edizione dello Stuni Climate Camp dal 1 al 6 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Angelo Gagliani della campagna per il clima Fuori dal Fossile. A presto! Ciao, grazie a tutti, vi aspettiamo. Ciao! Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro, ma anche agli eventi culturali più nel complesso, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti e buon pomeriggio per chi insomma è rimasto in città per questa settimana, a cavallo di agosto, e vuole appunto godersi un po' di serate fuori. C'è qualche arena che continua come dal mese di luglio e qualcosa che emerge proprio in questa settimana, ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Cominciamo proprio da ciò che continua, ovvero sia l'arena del Tor Bella Monaca Teatro Festival, che questa settimana offre un po' di spettacoli. Si tratta nel dettaglio di questo lavoro di Laura Lattuada e Sara Biacchi, con la regia di Pino Stravioli, cioè Le due sorelle, uno spettacolo in cui due donne, due sorelle in attesa dell'autobus improbabile, meditano sul futuro di attrici che hanno visto fallire la propria compagnia teatrale. Questo è un po', diciamo, un legame tra la compagnia teatrale, un legame più metaforico tra la compagnia teatrale e poi il rapporto che riguarda la loro vita. È sicuramente questo qua da evidenziare. Per quanto riguarda invece il 5 di agosto andremo a vedere anche Vladimir Luxuria con questo Princesa, che narra la vicenda della trans Fernanda Farias di Albuquerque, finita in carcere, che racconta la sua vita, il suo vicino di cella con cui non si incontrerà mai durante la detenzione. È chiaramente il riferimento più grande alla canzone omonima di Anime Salve, che apre Anime Salve di Fabrizio De André, e che accompagnerà anche l'intero spettacolo. Da segnalare anche il 3 e 4 di agosto, come Thelma e Louise di Luca Ferri e Claudio Del Toro, mentre Caterina Casini, Maddalena Rizzi e Carolina Torta in Cosa si cucina amore il 6 agosto, ancora saranno al teatro Tornella Monaca nell'Arena, appunto del teatro d'opera. Prosegue anche i solisti del teatro, sono tante edizioni, quest'anno 40 gli spettacoli appunto ai Giardini della Filarmonica. Questa sera andremo a vedere uno spettacolo teatrale musicale di Luca Giacomelli Ferrarini e Christian Ruiz, Follie di Broadway, un viaggio tra i noti e tra i brani del repertorio musicale di Broadway West End, e quindi tutto il mondo dei sogni, delle visioni, degli amori del musical theater, che appunto va per la maggiore da quelle parti, come sappiamo. Il 2 agosto, cioè domani, andremo a vedere questo spettacolo diretto da Daniela Morini Pelaggi, I Rustedi di Carlo Goldoni, un pezzo contemporaneo in tre atti che tratta insomma di tirannia dei mariti rispetto al rapporto con le proprie mogli. Per quanto riguarda invece il 3 agosto andremo a vedere Anita al buio di Matteo Scarfò e Priscilla Muscat, con la regia di Lucia Bellotti, 10 scene con dei salti temporali che abbracciano il periodo di vita della protagonista dai 16 ai 27 anni, è un monologo con varie parti di dialogo, insomma questo è quanto ci viene riportato dalla scheda. Il 4 di agosto Io viaggio col freno a mano di Massimiliano Aceti, sono Lorenzo e Emanuela, due attori teatrali di talento, ma vista la precarietà del loro mestiere decidono di aprire una libreria per sbarcare il lunario, quindi vedi Federico che poi la libreria è il piano B di qualcun altro, non solo il piano A della famiglia Rocconi. Ma il 5 invece di agosto andremo a vedere Miss Show Business, Judy Garland oltre l'arcobaleno, un spettacolo appunto dedicato alla grande Judy Garland, a 100 anni dalla sua nascita. E il 3 agosto invece La difficoltà del MEB, maschio bianco etero basic di Marco Te, regia di Lidi Precari, che probabilmente è un nome collettivo, non è chiaro adesso saperlo, che intaccia un po' cioè quella che è la vita da fuori sede, quattro coinquilini discutono di strasarcasmo nei luoghi comuni. Il 7 agosto sempre il Circolo Mario Mieli presenta Lettera ad un giovane amico di Vanni Piccolo, la regia di Mariano Lamberti, un regista che abbiamo già incontrato insomma nella nostra vita di spettatori, un'appassionata lettera che il protagonista indirizza ad un giovane omosessuale. La lettera insomma ripercorre certi ricordi personali del protagonista, le tappe fondamentali del movimento LGBTQ+, dagli anni 50 in poi. Questo per quanto riguarda appunto i solisti del teatro ai Giardini della Filarmonica, appunto via le parti di via Flaminia, vicino Piazza del Popolo. Mentre il 1 agosto, quindi da questa sera, dai Giardini di Sant'Alessio all'Aventino, quindi insomma Giardino degli Aranci, così viene chiamato di solito, la Pira del Bianco 2023 offre Enrico IV, con la regia di Marcello Amici, ovviamente si tratta del testo di Luigi Pirandello, che continua la rassegna pirandelliana all'interno del giardino. Una maschera di carnevale di Enrico IV di Germania cade da cavallo, batte la testa e rimane per 20 anni dentro il suo personaggio. Questo è l'artefatto dell'Enrico IV, bellissimo, di Pirandello, di Marcello Amici, porta in scena dal 1 al 6 di agosto ai Giardini di Sant'Alessio all'Aventino. Procedo perché al Teatro Villa Panfili, che è iniziata ieri, continua la rassegna Stravagante Festival dei Paesaggi 2023, ed è un lavoro che si articola attraverso le 3 regioni, Lazio, Umbria, Marche, realizzato da alcune compagnie di questi territori, ragionando sul fatto che il paesaggio è memoria ed è orientamento, quindi il Festival dei Paesaggi è una sorta di mappa per ritrovarci su un sentiero comune, quindi sia metaforico che reale. Questo è un tema diciamo generale, ma per quanto riguarda poi il programma vado a segnalare che 2-3 agosto Gianluigi Capone e gli amici della Scuola Romana di Circo presenteranno uno spazio dedicato alle arti circensi. Il 3 agosto il laboratorio dispersi e poi di Dinamis, Teatro ed Enea per bambini e ragazzi dai 7 anni in su, quindi insomma se abbiamo qualcosa da far fare ai ragazzi è arrivato il momento. Il 3 agosto San Pellegrino mi presenterà Monday, il road show di Life Blue di Teatro, realizzato con sempre in Enea Legambiente Teatro Vascello. È un progetto, un'azione che sperimenta l'utilizzo del teatro come pratica di sensibilizzazione e comunicazione su tematiche ambientali e sugli inquinanti emergenti. Questo è molto importante. Quindi Festival dei Paesaggi Stravagante al Teatro Villa Panfili. Segnalo in oltre gli ultimi due appuntamenti. Intanto fuori Roma ci allarghiamo per andare a vedere dal 2 al 6 agosto, quindi da domani, la nuova edizione Pazzi Fuoco del Festival Castelli in Aria, festa top. E quindi siamo a provincia di Frosinone, Castello Cantelmo di Alvito, dove Castelli in Aria ha vissuto quasi sempre, insomma, le proprie edizioni. Il 2 agosto domani accadrà una cosa bellissima: noi pomeriggio ci sarà la passeggiata con gli asinelli per musica e racconti, quindi una partecipazione, insomma, del mondo teatrale al territorio della Sociaria della provincia di Frosinone. Poi seguirà azione rituale e presentazione dell'edizione, appunto, di Farsi Fuoco, e poi la festa di apertura con un concerto poi finale, insomma, di C7. Andremo a vedere il paese delle facce gonfie della Confraternita Licchianti, questa compagnia che, insomma, da seguire, insomma, di area milanese, inframmezzata dal torneo di biliardino. Ci sarà poi Quando Saremo Grandi di Fabiana Iacozzilli al Castello Cantelmo la sera, insomma, quindi un momento di teatro alto, perché Fabiana Iacozzilli una delle registe più stimate d'Italia a questo preciso momento. Poi seguirà il giorno successivo, 4 agosto, il primo studio di Thalia, di Chiara Quaro, Lorenzo Leopoldo e Gida. Invece 30 anni di grano del Teatro delle Ariette sarà alle ore 21, sempre a Castello Cantelmo. Il 5 agosto ci sarà ancora teatro, ma anche dei concerti, I racconti della porta accanto di Vittorio Macioce, e poi seguirà un concerto di Isabella Alfano e Intercapedine Virginia Violetta, credo di questo, e poi lo spettacolo di danza con la partecipazione delle bambine e dei bambini del laboratorio Playfulness al Castello Cantelmo. Seguirà Giuseppe Scoditti con 1,95 a Stand Up Comedy alle ore 23, ahimè troppo tardi, ma chissà chi è là, insomma, se lo può godere tranquillamente. Ultimo giorno, il 6, per un paio di cose importanti: per l'espedizione del laboratorio verso una biografia sonora di Iacozzilli con Luca Lotano, per Castello Cantelmo, le avventure di Pulcinella di Stefania Cucuzzo per l'arte di Burattini, ma chiuderà appunto la serata per il teatro Io Muoio e Tu Mangi di quotidiana.com. poi seguirà concerto e DJ set. È la edizione questa di Castelli in Aria, molto bella, molto interessante. Ultimissimo lavoro che andiamo a segnalare, appunto, Mi Illumino di Teatro a Garbatella. Il quartiere lo conosciamo bene, dal 1 al 7 agosto, da oggi, andiamo a vedere a ingresso libero arte, teatro e musica. È organizzato da 369 gradi, e andremo a vedere fin dal primo giorno, insomma, appuntamenti di varia natura. C'è un'installazione artistica, La Garbatella del Futuro, di Pietro Angelini e Gaglia Petronio, che durerà tutta la manifestazione. Il primo di agosto, questa sera, 19:30, per vedere Mattia il Nonno di Roberto Piumini, con la regia di Tonio De Vinto, in scena sarà Ippolito Chiarello, spettacolo importantissimo del panorama del Teatro per le Nuove Generazioni. E domani andremo a vedere Dimensione Brama, che è allo stesso tempo teatro, concerto rock e performance d'arte contemporanea. E seguirà poi il 3 agosto Alberi Maestri, il lavoro di Camp Stilago Residenza, che appunto porta l'esperienza di passaggio del teatro immersivo all'interno dello spazio naturale. Poi il 4 agosto avremo un discorso sul mito di Vittorio Continelli. Poi ancora Carlo De Ruggeri il 5 agosto con Monica Nappo nell'829B. Porterà appunto la storia Ogni cosa bellissima di Duncan Macmillan. Seguirà poi Farsi Fuori il 6 agosto, Luisa Merloni, Marco Quaglia. Io ho visto questo spettacolo molto interessante sulla scelta di essere madre oppure no. E poi l'ultimo appuntamento sarà quella Cicala, che è Tenci Senza Freddo, nuovo format di Bartolini Baronio.